Incontri di Gianfranco Fabi. Voce di Patti Smith, People Have the Power. Iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a Silvano Lattanzi. Buongiorno, buongiorno. People Have the Power. Come mai questa canzone le piace? Come mai Patti Smith così irruente, così forte nelle sue corde? Vi è un detto che in Abruzzo chi si prende si somiglia. È un po' grande l'accoppiamento, me ne scuso, però in quegli anni eravamo ribelli entrambi, noi nel nostro modo di essere e lei come artista. Insomma, abbiamo condiviso dei sogni, ognuno nel proprio ruolo. Ognuno nel proprio ruolo. Lei, Silvano Lattanzi, lo presentiamo, è un artigiano industriale, produttore di scarpe, mi corregga dove sbaglio, marchigiano, vive e lavora dove? Lei non sbaglia mai, dottore, ma vorrei aggiungere su artigiano una parola che mi sembra giusta, è un artigiano contemporaneo. Più che produttore di scarpe, mi vorrei identificare produttore di un manufatto e di oggetti dove si sono riscoperti le regole e i valori etici di 100 anni fa, di 50 anni fa, prima che arrivasse l'industrializzazione forzata, prima che arrivasse la velocità, il ritmo della manovia. E in questo laboratorio la lentezza, in un mondo così accelerato, è ancora un pregio. Difatti, in certe fasi di lavorazione dobbiamo aspettare che si asciugano, dobbiamo dare tempo, proprio aspettare. E la mia storia, io sono nato a Sant'Elpidio a Mare, una bellissima cittadina, una città nobile del centro Italia. Lei mi dice marchigiano, mi identifico molto nell'arte della nostra regione, mi identifico molto grandi imprenditori che abbiamo di successo, che mi stimano e ci rispettiamo reciprocamente. Come tutti sono un po' critico, perché è una regione che, se fosse meno autocelebrativa, in questo momento potrebbe dare molto di più. Ecco, mai questo lo vedremo, ma vediamo un po' proprio all'inizio. Come mai le è venuto in mente, si è trovato, ha potuto scegliere questa strada di fare appunto l'artigiano del lusso, l'artigiano in questo settore particolare? Guardi, non so cosa io possa avere nel DNA. Io forse delle volte mi vergognavo di mio padre e poi mi ha regalato la gioia, mi si è addormentato in mezzo alle mie braccia. Poi un amico mi diceva, ma guardi che tuo papà, come sapeva indossare il cappello, era un uomo di classe. Eppure era un uomo di origini umili, era stato un carabiniere. Insomma, avevo questo amore per il bello, in una zona dove in quegli anni gli uomini venivano considerati più bestemmie, dicevano, più paglia di produzione raccontavano, più auto di lusso potevano dimostrare di aver acquistato, anche se poi non avevano il garage. Insomma, gente che si raccontava al bar. E io soffrivo di queste cose, perché vi era in me una timidezza, vi era in me un modo più pacato. A me piaceva in quegli anni indossare la giacca, piaceva leggere il giornale, e veramente io ho sofferto questa realtà di quella zona. Per fortuna a 18 anni, con il 68, me ne sono andato. Mi piaceva Milano, mi piaceva Roma, mi piaceva tantissimo Parma, che è una città di grande eleganza, e poi Parigi, poi Londra. E lì, con la scusa della ribellione sessantottina, in queste vecchie vie bellissime di Parigi, di Londra, alla sera venivo attratto da questi vecchi calzolai, gente di gran classe, perché sa, fare il calzolaio in provincia è una cosa, ma farlo a Parigi, a Londra, a Milano, a Roma è un senso di nobiltà. Hai a che fare con la gente più bella del mondo, la nobiltà europea, i grandi imprenditori. Veramente, con il 68, questa gente era un po' sfiduciata, praticamente non pensavano che si poteva avere un futuro con i loro laboratori. E io, che ero appassionatissimo e sognavo di fare qualcosa di eccezionale, mi sono riportato nel mio laboratorio di Sant'Elpidio a Mare tutti i vecchi modelli, le forme appartenuti a personaggi importanti del secolo scorso. e perciò era un patrimonio inaudito, perché questa gente veramente smetteva di lavorare, la gente non usciva più di casa, poi insomma la storia è questa, si aveva paura di uscire alla sera, insomma si pensava alla rivoluzione, si pensava che tutta la bella gente, i ricchi, venissero estirpati. E così non è stato, io mi sono trovato un patrimonio, ma la cosa più importante che mi hanno dato, e quella è una cosa che non si compra, la passione per il lavoro bello, la passione per la precisione, la correttezza verso il cliente, la puntualità e una fase di lavoro ripetuta anche 10 volte finché non è perfetta. Ecco, lei ha parlato di Parigi, di Londra, era un po' un sogno, adesso è presente con le sue boutique in molte città. Sì, difatti, ecco la vanità un po' dell'uomo. Ho sempre pensato di non essere il primo della classe in provincia, al paesello, o nelle Marche, o nella mia regione, o in Italia. Ho sempre pensato che bisognava confrontarsi con il mondo. Cioè, in poche parole, ho sfidato la globalizzazione prima che venisse, perché pensi, la mia boutique di New York è stata aperta nel 2002, proprio dopo l'11 settembre. Ero là a vedere la location e dopo 4 mesi, con tutte quelle prospettive così brutte, proprio della sfiducia, e aprì questa boutique a New York. D'altronde, anche coraggiosamente, già eravamo presenti a Milano e a Roma. In Cina nel 2005, appena si è liberalizzata la possibilità di fare un'azienda propria anche con solo capitale straniero, mi sembra che dopo Dolce & Gabbana la mia azienda, la nostra famiglia e la mia famiglia è stata quella che ha aperto una società tutta italiana. Il vecchio detto, meglio che ti ruba il contadino e non il fattore, così invece di avere un socio cinese rischiamo con dei dipendenti, ma preferiamo che, insomma, che sia così. Quale boutique le ha dato maggiori soddisfazioni negli ultimi anni? Beh, guardi, è New York perché veniamo da anni di crisi e sulla Madison, mi creda, abbiamo resistito in pochi, a parte le grandi firme che poi sono 3 o 4, e la Tanzi, che non ha dietro una multinazionale, che non ha dietro il grande finanziere, riesce a competere con aziende di proprietà della famiglia di Bernard Arnault, di Hermès, e perciò sono uno di quelli che sulla Madison ha resistito. E le dico anche una battutaccia, non potendomi permettere di acquistare gli immobili, però siamo a posto con gli affitti, e quando una boutique è a posto con gli affitti va benissimo. E aggiungo anche che quella di Milano è il mio fiore all'occhiello, insomma, davanti al Four Seasons, per di più il proprietario, siamo riusciti ad avere un nuovo contratto fino al 2023, che è una cosa stupenda, adesso con il 2015, insomma, ecco, Milano è Milano, io sono innamorato di Milano. Se un giorno chiedessi un sogno, mi dicessero cosa vorresti, Vorrei sentirmi cittadino milanese. Amo questa città. Come fa a restare un'azienda artigianale globale? Non è un po' in contraddizione? Guardi, grazie a Milano, non tanto Roma, dove è diverso, anche se ha una bella storia. Milano ci passa il mondo, è il ricco personaggio, ma non è ricco arricchito, l'uomo di grande gusto, che ha di tutto, che la ricerca del bello e che lavora anche a Milano. Vede, è qui, poi va a New York e poi lo trovo a St. Moritz e poi me lo ritrovo a Porto Cervo e poi me lo ritrovo a Shanghai, a Tokyo, a Mosca. Cioè, noi siamo così, ci si ritrova. Pensi che 120-150 giorni all'anno li vivo nel mondo, non li vivo in Italia o a Sant'Elpidio del Mare. Per cui è il nostro destino. Ecco. Comunque la produzione rimane. La produzione rimane non solo in quella zona, ma vede, noi facciamo, io faccio un... sempre un lavoro a rovescio. Difatti l'anagramma della mia azienda è Zinta, che non è altro l'anagramma di Lattanzi. Mentre tutti mandano a produrre sempre verso il sud, dove costa di meno la manodopera, io alcune fasi di lavoro le mando ancora a Vigevano, nella zona dove c'è la tradizione e la cultura del bello, del fatto a mano, del lusso. E i miei accessori, un certo tipo di abbigliamento in pelle, valigeria, viene prodotto tutto quasi oltre Rimini, cioè la vecchia scuola bolognese, milanese, parmigiana, lì dove c'era l'arte della pelle e del cuoio. Non c'è niente da fare, il lusso si fa ancora. L'arte del fare bene, questa è un po' una dote italiana. Incontri. Bentornati ancora, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano, ancora con Patti Smith, People Have the Power. Continuiamo il nostro incontro con Silvano Lattanzi, un industriale, artigiano del lusso, produttore di scarpe e accessori in pelle, un'azienda piccola ma grande, piccola perché è di dimensioni, di nicchia sicuramente nel mercato, ma grande perché, come ci spiegava nella prima parte, ha boutique a Milano, a New York, a Parigi, a Shanghai, a Pechino, mi sembra, non so se ne ho aggiunta qualcuna. Verissimo. Quindi una piccola azienda, amante del lusso, amante del bello, amante appunto delle cose che si possono godere e quindi che ha la sua clientela nella fascia alta del mercato. Come sta andando il mercato, il vostro mercato in questo periodo un po' difficile per tutti? In questo momento cerchiamo di non spingere sulla parola lusso, ma cerchiamo di ricordare la concretezza di certi acquisti. E partendo da quel libro, Signori le scarpe, del Conte Nuvoletti, diceva che un uomo con 10 paia di scarpe giuste può fare tutta la sua vita. E oggi un oggetto che noi produciamo può anche durare 20 anni. Diamo delle garanzie. C'è un detto di mio padre che diceva, il vecchio Angelo, un paio di scarpe dopo 15 anni si vede se ancora sono state domate, se la punta batte col pavimento, se i cuoio e il camoscio è sempre più bello. Perciò vendiamo la garanzia, il tempo, l'investimento. I ricchi, non a caso, e noi abbiamo avuto la fortuna di non avere mai dei ricchi arricchiti in maniera illegale, i ricchi prima che ti danno la loro fiducia ti fanno crepare, veramente analizzano. Allora, se si accorgono che non li tradisci, continuano a investire in questa azienda. Io li considero i miei investitori, perché chi acquista un paio di scarpe, un oggetto Lattanzi a quei prezzi, è come se avessero acquistato delle azioni. Io li considero veramente i miei finanziatori. Ripeto, va bene, siamo cresciuti e abbiamo enormi prospettive. Ecco, in questo senso resta però la vostra un'azienda familiare, un'azienda che appunto, contando sul lavoro delle persone, deve avere dei collaboratori molto, molto affidabili. Guardi, questo, un controllo immediato. Questo è molto bello. Noi siamo convinti che finché ci sarà il sangue della famiglia Lattanzi, noi continueremo a migliorare il prodotto. Difatti i miei figli sono inseriti, lavorano, hanno capito il lavoro, il vecchio mestiere di una volta, e da noi una fase di lavoro la ripetiamo 10 volte finché non è perfetta, ci fermiamo. Se avessimo il manager, se avessimo, senza offesa, il bocconiano di turno, non lo fa, perché prende questo prodotto, incomincia a passare il prezzo, a diminuire, che non è altro che l'anticamera della miseria, e pensa al fatturato per magari aumentare il suo stipendio annuale. Da noi non si fa questo. Le regole sono queste. Abbiamo un grande valore aggiunto che i clienti ci danno volentieri, e finché ce la facciamo vogliamo rimanere così. Ma come possiamo fare per crescere ancora? E abbiamo un'azienda molto sana, un'azienda ben guidata, dove abbiamo un controllo maniacale della gestione finanziaria. Le boutique gestite come fossero delle filiali, i controlli maniacali. Cosa vogliamo fare? Fra 2 o 3 anni ci auguriamo di avere una serie di investitori che fanno crescere la nostra azienda, fermo restando di non arrivare mai alla maggioranza, perché, ripeto, finché ci sarà qualcuno di Lattanzi, sarà quel prodotto, altrimenti non sarà più lo stesso. Ecco, in questo senso si può capire appunto l'attaccamento all'azienda, l'attaccamento al nome, però c'è bisogno appunto di crescere, quindi dei soci finanziari che vi aiutino a crescere restando un'azienda familiare. Ma vede, è possibile, perché il nostro consumatore, il nostro cliente che viene nelle boutique a spendere 10, 15, 20 mila euro in un momento, in mezz'ora, per 2 o 3 oggetti, se noi gli chiedessimo di investire in 20, 30, 50 mila euro di azioni della Silvano Lattanzi, lei pensa che non lo farebbe? Perciò si può dire che potrebbe essere il primo caso in cui un'azienda colloca tutte le sue azioni prima di essere quotata. Mi capisce? Certo, ecco, un collocamento privato ci può essere. Ecco, perciò, insomma, mi sembra una cosa fattibile. Collegando appunto la boutique anche azionaria, boutique finanziaria. Vede, mi sta dando delle idee, grazie di cuore, complimenti. No, ecco, in questo senso però guardiamo un po' all'esterno. Anche il nostro paese, l'Italia, ha bisogno però di crescere complessivamente. Qual è la sua visione? Lei è stato impegnato in Confindustria. Sì, esatto. Guardi, io rimango un uomo di Confindustria, perché chi è stato presidente di una territoriale lo rimane. Io sono attaccato, nonostante qualche problema che abbiamo avuto. Io in questo momento sono un attimino preoccupato, perché il mio grande consulente mi diceva: se l'imprenditore non accetta lo scontro sociale, meglio che cambia mestiere. Le posso fare una confidenza? Io sono preoccupato. Beh, ma ci sentono in molti, quindi. Guardi, io sono preoccupato proprio per l'articolo 18, che non si vuole capire in tutte le parti del mondo, se una persona non fa il suo dovere, se una persona prende 10 giorni, 20 di malattia e non è vero che ha la malattia, viene cacciato. Da noi non è possibile. Io sono un po' sfiduciato. Se noi imprenditori non ne ricominciamo a fare gli imprenditori, non ce la fa il bravo Monti, tutti i politici, noi non ce la faremmo. Dobbiamo essere noi imprenditori a ricominciare a tirare il carro. Come lo possiamo fare questo? Incominciando a riassumere. Assumere, creare posti di lavoro e ripartire, ma si deve cambiare le regole. Chi non fa bene il suo lavoro deve essere cacciato dall'azienda. Non c'è santi che tenga, non si può fare la qualità, non si può competere con il mondo con dei sabotatori in azienda. Sono pochi, ma sono quelli che rovinano. La mia azienda, tanti miei colleghi potrebbero assumere gente. Hanno paura perché ti portano in tribunale e sa chi ci guadagna? Gli avvocati, gli studi legali. Oggi una causa di lavoro a Milano per un commesso che ti impugna un licenziamento del tempo determinato sono 2.500 euro, solo di costi. Abbiamo imparato la lezione, li regaliamo al dipendente e ci costa di meno. Ecco, in questa prospettiva come vede i giovani? Come motivare i giovani verso un lavoro concreto, un lavoro anche manuale? Guarda, mi piacerebbe dire, io vorrei conoscere quel signore che si è inventato le 35 ore settimanali di lavoro. Pensa, i grandi imprenditori, 35 ore le facciamo in un giorno e mezzo. Questa notte siamo partiti con mia figlia alle 2, siamo qui a Milano alle 8 puntualmente, poi abbiamo avuto un appuntamento e adesso siamo qui da lei. Se non ricominciamo a lavorare, non ce la facciamo, non bisogna guardare l'orario, arrivare prima in azienda, mattina presto e sera tardi. Quando mi dicono i giovani che vanno all'estero che fanno successo, benissimo, mi sta bene. Sai qual è il problema? Che un giovane in Italia non si alzerà mai alle 5 per andare a lavorare o lavorerà fino a mezzanotte. Quando va all'estero sapendo che deve portare il risultato si impegna, lavora 20 ore su 24 e poi magari noi stessi diciamo questi ce l'hanno fatta, ma ce l'hanno fatta con tanti sacrifici, ore di lavoro. Cosa dice un giovane che lei assume la sua azienda, che entra per la prima volta in azienda? Guarda, le dico subito, forse potrei sembrare una persona che bluff, una persona, dico ragazzi, in questa azienda lei si deve rassegnare, non dovrà fare l'operaio per tutta la vita. Lei adesso mi aiuta, impara il mestiere, facciamo una grande bella azienda e poi lei diventerà il capo di un reparto, sarà un primo della classe. Perciò le do questa speranza, non farà il dipendente, sarà uno dei primi. Cioè un giovane non lo puoi relegare alla catena di montaggio, non gli puoi dire lei per tutta la vita fa questo lavoro da dipendente. No, gli devi dare dei sogni. E io ci credo in questo, ho dei ragazzi meravigliosi che mi portano avanti dei lavori, ho dei giovani, e nel mio laboratorio, tristemente, io sono diventato il più vecchio. Beh, questo in fondo è comunque la motivazione resta fondamentale in questo, la capacità di vedere anche. Ecco, cosa vuol dire però in un'azienda come la sua, legata appunto alle tradizioni, legata all'artigianato, fare innovazione? Come le dicevo prima, artigiano contemporaneo. Se noi pensiamo di avercela fatta, che noi siamo bravi, ci autocelebriamo, non ce la facciamo. Noi dobbiamo essere critici con i nostri prodotti. Dobbiamo seguire il mondo della moda, il mondo dell'abbigliamento, degli accessori. Dobbiamo seguire l'architettura, come si muovono gli architetti. Collezioni, creatività. Ogni volta buttar via e ricominciare da capo e migliorare. Però una grande creatività, come si sente, e prendere ispirazione da tutto. In questo modo ce la facciamo, cioè proprio innovarsi continuamente creando modelli nuovi, stili nuovi, e avendo il coraggio di far questo. Ecco, lei ha già accennato prima alcuni problemi, grandi problemi sulle riforme, sulla realtà, ecco, all'Italia di fronte a una crisi certamente difficile, come vede le prospettive guardando appunto in avanti del nostro paese? Guardi, non tocco un tasto che non riguarda la mia competenza, perché è giusto che ognuno faccia quello che deve fare. Io mi rivolgo, visto che siamo nella sede, agli imprenditori. Dobbiamo ricominciare a fare azienda, a credere nel manufatto, andare presto al mattino in azienda, avere la gioia di aprire e chiuderla, lasciar perdere tutto quello che è il mondo finanziario, non ci riguarda. Abbiamo le mani d'oro come italiani, ma dipende da noi, le ripeto, se ce la facciamo è merito degli imprenditori, se non ce la facciamo è colpa degli imprenditori. Non dobbiamo rassegnarci a essere un paese post-industriale. Possiamo mettere. Ma chi lo dice? Abbiamo ancora miliardi di risorse da dare al mondo che aspettano da noi italiani, che vogliono vedere i nostri prodotti, le nostre cose. Non è vero che il capitalismo è scoppiato, gli imprenditori che non vogliono fare più gli imprenditori. Quindi il Made in Italy ha ancora un futuro. Ma il fatto a mano in Italia ha un grande futuro. Grazie a Silvano Lattanzi, grazie anche alla sua passione per fare le cose, per fare impresa, per tenere vivo appunto questa capacità del fare, del bello, anche costoso, però insomma anche questo ha un mercato nel mondo ed è importante per sostenere appunto il Made in Italy, per sostenere il nostro paese. Grazie a Silvano Lattanzi. Grazie a voi tutti. E grazie a Peter Bascapè in regia, a Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.